L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, quello che sa anche punire coloro che questo rispetto non ce l'hanno. Di questo parliamo questa settimana. Partiamo da un rapporto che ha presentato qualche tempo fa Legambiente, il rapporto dal titolo Rifiuti S.P.A. 10 anni di inchieste sui traffici illegali di rifiuti nel nostro paese. Oggi le inchieste sviluppate grazie al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sono diventate 191, dice Legambiente, le ordinanze di custodia cautelare 1199. Ma questo decennale è stato anche l'occasione per la stessa associazione per fare il punto sui risultati raggiunti, ma anche per avanzare delle proposte per un nuovo sistema di tutela penale dell'ambiente. Antonio Pergolizzi, che è coordinatore nazionale dell'Osservatorio di Legambiente sulle ecomafie ed è anche autore di un volume di recente pubblicazione dal titolo Toxic Italy, è qui con noi. Ben arrivato, ben trovato Pergolizzi. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi. In questo volume tu tracci un panorama ancora sconcertante del traffico di rifiuti illegale in Italia, ma secondo te che sarebbe stato se quel delitto non fosse diventato un delitto? Insomma, l'esistenza di questo delitto ha frenato azioni pericolosissime per l'ambiente e la salute umana comunque? Sì, sicuramente. Noi ci troviamo ancora oggi dinanzi a un quadro sanzionatorio che è davvero ridicolo. Qualora non si riesce a contestare il traffico organizzato di rifiuti, ma semplicemente la gestione di rifiuti o l'abbandono di rifiuti o il getto pericoloso di cose, le pene previste sono assolutamente ridicole. Parliamo di, nel caso di getto pericoloso di cose, di una pena, di una sanzione massima intorno alle 200 euro e nel caso di abbandono di rifiuti non andiamo oltre il migliaio di euro. Nel caso di creazione di discarica abusiva non si superano i 26.000 euro. È chiaro che con queste sanzioni di tipo pecuniario non si può andare da nessuna parte, quindi diciamo abbiamo un quadro sanzionatorio che è sì penale ma è di carattere contravvenzionale, non ha nessuna capacità di deterrenza. Altro nostro ospite oggi è Stefano Maglia, docente di legislazione ambientale all'Università di Parma, tra l'altro fondatore anche del sito Tutto Ambiente, ben trovato anche a lei. Buongiorno. Professore, lei che ne pensa di questo? Come, insomma, sono passati 10 anni, questi 10 anni, lei che bilancio può fare? Ma sono passati 10 anni nei quali contemporaneamente sono andate avanti altre cose, per esempio è andata avanti l'Europa e quindi io sono sempre stato, per così dire, un tifoso. Per quanto concerne l'applicazione della normativa europea, noi deteniamo il record del mondo col decreto Ronchi, che siamo riusciti a recepire la direttiva europea del 75 22 anni dopo, quindi siamo un po' lentini, insomma, come al solito. Questa volta invece c'è questa direttiva nuova, diciamo del 2008, e siamo stati i primi a recepirla in Europa e noi facciamo queste cose un po' strane. No, rispetto al tema degli illeciti, un tema interessante sicuramente. Io non ritengo che il 260 sia panacea di tutti i mali, la soluzione di tutti i problemi, anche perché contiene per esempio dei termini assolutamente indeterminati, la stessa termine attività organizzata o ingenti, che sono quelli tipici di questa tipologia di delitto, che quasi si rischiano fino a 6 anni di reclusione, può essere usata in modo anche abbastanza improprio. Quindi io conosco casi in cui è stato sufficiente che ne so, un'azienda ha messo ha codificato i rifiuti in un modo improprio e sono stati ritirati in un modo improprio e per qualche magistrato questa è stata considerata un'attività organizzata e quindi con le conseguenze che conosciamo. Il problema secondo me, se posso dire, va sta anche a monte, nel senso noi abbiamo pochissimi poteri, pochissime risorse economiche anche per quanto riguarda la vigilanza e il controllo. Stiamo nascondendoci dietro una cosa che l'Europa non sa nemmeno cos'è, non gliene porterà assolutamente nulla, come il Sistri, per nascondere il fatto che non ci sono risorse, non ci sono soldi, perché sono destinate le attività davvero di controllo e di vigilanza. E questo poi è un tema di cui tra pochissimo continuiamo a parlare, però vorrei sentire anche il parere sempre su un impianto diciamo generale di Vincenzo Dragani, terzo nostro ospite, giurista ambientale, avvocato, coordinatore del sito reteambiente.it, benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, stando prima sul tema appunto generale, com'è la situazione oggi, lei come la vede? Poi facciamo un passetto avanti su quello che dovremmo o potremmo fare. Sì, dunque, la situazione oggi a livello nazionale, che effettivamente, come sottolineato dagli altri ospiti, sostanzialmente gli illeciti in campo ambientale sono classificati quasi tutti come reati contravvenzionali anziché come reati delitti, e ovviamente questo ha delle conseguenze dal punto di vista della perseguibilità e anche della sanzionabilità. Cioè, giusto per fare un quadro, le contravvenzioni si prescrivono molto prima dei delitti, molte volte sono estinguibili con l'oblazione, quindi con il semplice pagamento di somme di denaro, non sono intercettabili dal punto di vista telefonico ambientale, non è punibile il semplice tentativo, non sono applicabili le misure cautelari personali, quindi un po' di problemi ci sono, diciamo. Se andiamo a vedere il nostro codice ambientale, il famoso decreto legislativo 152 del 2006, effettivamente vediamo che sono quasi tutti reati contravvenzionali, a parte tre fattispecie che sono punite come delitti, quindi in maniera più sostanziosa, che sono la ricordata attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, la falsa certificazione nell'analisi dei rifiuti e, una volta operativo il futuro SISTRI, cioè questo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, sarà perseguibile come delitto anche il trasporto senza relative schede cartacee. A parte questo, effettivamente tutti gli altri sono reati contravvenzionali. Dobbiamo ricordare che nel nostro sistema, comunque nel codice penale, sono previsti un paio di fattispecie, seppur molto generali, che possono ricondurre però a livello di delitto alcune aggressioni dell'ambiente, che però si devono tramutare in danneggiamento di altri beni, come per esempio l'incolumità pubblica. Noi abbiamo una fattispecie, quella del 434 del codice penale, che è il disastro doloso, nel quale molte volte viene ricondotto il disastro ambientale. Però ovviamente sono fattispecie molto più difficili, sì, da gestire, ecco. Molto più sì. Sì, complicato il tutto. Vorrei tornare. Sì, prego. Lo dico, un'occasione, effettivamente, come ricordavano gli altri ospiti, è rappresentata dal recepimento della direttiva 2008-99, cioè quella sulla tutela penale dell'ambiente. Lì il quadro è un po' strano, anche diciamo un po' interessante, perché se uno va a vedere la storia di questa direttiva si accorge di una cosa, cioè che questa direttiva è stata emanata nel 2008, quando l'Unione Europea ancora non aveva una forza nella legislazione ambientale che gli è stata attribuita invece dopo dal Trattato di Lisbona. Cioè oggi la stessa, sì, direttiva potrebbe essere adottata su base giuridica diversa e potrebbe essere anche molto più potente, non tantissimo, ma senz'altro un po'. Draghi, la fermo un attimo, perché sul tema europeo ci terrei a tornare con il professore. Allora, professor Maglia, riprendiamo un attimo la questione europea. Quindi, a partire da quello che abbiamo appena, che ci diceva adesso Draghi, invece lei che osservazioni voleva fare? No, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Draghi, anche su quanto concerne sicuramente l'ampliamento allora, che del sistema contravvenzionale e di illeciti amministrativi che ci sono nel nostro paese, per ricondurli a un sistema di delitti, ma non perché, oddio, i delitti fanno paura, perché, come diceva giustamente, ci sono delle possibilità di indagine ben diverse, dei tempi prescrizionali diversi e tutto questo. Il problema però sarebbe, secondo me, non il problema, bisognerebbe sfruttare bene quanto, ad esempio, questa nuova direttiva ci propone. Noi abbiamo recepita, come al solito, presto ma male, tanto per cambiare, perché? Perché questa direttiva dice delle cose molto importanti. La prima è che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, questo è il punto centrale. Secondo, bisogna fare attenzione all'elemento soggettivo, cioè dipende anche qual è il grado di colpa grave o dolo col quale viene commesso un determinato illecito. Terzo, viene punita, deve essere punita secondo questa direttiva anche il favoreggiamento e l'istigazione a compiere determinati reati. Quarto, questa direttiva ci dice una cosa importante che noi non possiamo recepire completamente, ovvero che deve essere aumentata, se non anzi deve essere codificata la personalità penale anche nei confronti delle persone giuridiche. Mi spiego meglio, se anche abbiamo un delitto incredibile e quindi viene commesso, viene perseguito e viene punito chi ha commesso questo delitto, la società, l'azienda rimarrebbe praticamente estranea. Perché sì, deve essere punito chi ha commesso il fatto, legale rappresentante di questa azienda. Abbiamo avuto questa possibilità recentemente, è entrata in vigore nell'agosto dell'anno scorso, questo decreto legislativo 121 che è di parziale recepimento di questa direttiva. Che cosa ha fatto quindi? Ha inserito tra i reati presupposto del decreto 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, anche alcuni reati ambientali. Facendo cosa però? Facendo un'operazione in parte corretta, ma in parte no, perché significa che ha recepito, per esempio ha inserito tra i reati ambientali alcuni reati di valore assolutamente formale e per me risibile, per esempio l'articolo 256,4, che punisce penalmente, seppur come contravvenzione, ed è inserito tra i reati presupposto, se qualcuno così non ottempera esattamente a quanto c'è scritto nella prescrizione di un'autorizzazione da lui perfettamente ottenuta. Questa è una cosa che non ha senso dal punto di vista della sostanziale gravità di un atto. Mentre invece l'abbandono di rifiuti, che se commesso da persona giuridica è un reato penale già adesso, non viene inserito in questo contesto. Quindi io partirei da subito facendo una riforma del decreto 121, tanto per cominciare, e sicuramente ampliare il novero dei delitti per quelle giuste conseguenze di cui accennava Dragani. Sull'ampliamento del novero dei delitti richiamerei in causa Antonio Pergolizzi, perché Lega Ambiente ha avanzato le sue proposte in quel rapporto di cui diceva all'inizio, Rifiuti S.P.A., ma poi dopo anche immagino nella stesura del libro Toxic Italy. Antonio, tu hai avuto di che riflettere, no? Su quali, quale potrebbe essere l'ampliamento, almeno dal vostro punto di vista. Sì, assolutamente, come diceva benissimo il professor Maglia, il recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente è stato un recepimento sicuramente parziale, che non ha di fatto comportato alcuna novità se non diciamo quella che viene definita la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, però per il resto si rimane nel quadro di sanzionatorio di tipo contravvenzionale, quindi diciamo con una scarsa capacità deterrente. Io, come associazione Lega Ambiente, riteniamo che l'inserimento del delitto del traffico illecito di rifiuti è stato sicuramente un grande passo in avanti, perché ha consentito agli investigatori di utilizzare strumenti investigativi molto più pervasivi, come le intercettazioni telefoniche, ambientali, come tempi di prescrizione più lunghi, che hanno consentito di svelare l'intera filiera criminale e quindi scoprire non soltanto il trafficante, non soltanto l'ultimo anello della catena, ma di scoprire l'intera filiera criminale, quindi tutti quegli imprenditori che in un modo o nell'altro, insieme a professionisti, insieme spesso a amministratori pubblici, hanno utilizzato la possibilità di poter spostare i rifiuti lungo e largo per il nostro paese per accumulare soldi e far risparmiare soldi a molte società. Quindi sicuramente è un grande passo in avanti, però va fatto ancora tantissimo. Facci qualche esempio di quello che manca, perché purtroppo il tempo sfugge. Per esempio, noi ancora ci troviamo dinanzi ad un quadro sanzionatorio che punisce la mancate autorizzazioni. Nel caso di abbandono di rifiuti o di inquinamento si puniscono i responsabili perché non avevano le autorizzazioni per immettere in atmosfera o nel suolo, in ambiente, rifiuti tossici, quindi non si punisce l'inquinamento in quanto tale. Il disastro ambientale doloso è difficile da provare in sede processuale, l'unico caso è stato recentemente quello di Guarinello, quindi la procura di Torino sull'Eternit, ma è un'altra cosa, non parliamo di rifiuti ma parliamo di un'altra cosa, quindi è molto complicato. Quindi per questo noi chiediamo, da quando abbiamo iniziato a scrivere rapporti con mafia, che i reati ambientali finiscono nel codice penale e le situazioni più gravi diventino veri e propri delitti ambientali, quindi non semplici contravvenzioni. Quindi aumentando in questa maniera i termini di prescrizione, non si possono perseguire questi reati, questi veri e propri reati ambientali che hanno degli effetti devastanti sulla salute dei cittadini con delle sanzioni ridicole di poche migliaia di euro. Uno degli ultimi casi di cui risale a qualche giorno fa, dove a Segrate la finanza ha sequestrato 7 camion di una nota azienda che lì in un cantiere dove avrebbe dovuto sorgere un centro commerciale avevano stoccato quantità impressionanti di rifiuti tossici. I reati contestati sono abbandono di rifiuti e gestione senza autorizzazione di rifiuti, quindi delle pene assolutamente risibili che non costituiscono un'efficace deterrenza. Insieme a questo, insieme a un all'inserimento del delitto ambientale nel codice penale, chiediamo che ci siano sicuramente maggior controlli, chiediamo che ci siano maggiori risorse alle forze dell'ordine, quindi alla magistratura, per questo, per perseguire questo tipo di reati, chiediamo maggiori risorse per quanto riguarda le bonifiche, sì. Perché adesso siamo... Il problema delle risorse in Italia è immenso, no? Dragani, ricordo, coordinatore del sito reteambiente.it, non abbiamo sentito lei sul punto di quello che manca, che si potrebbe fare, che è, diciamo, la sua scaletta delle priorità. Ma sicuramente, come ricordato dagli altri ospiti, si può recepire meglio la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Lo spazio c'è, anche perché questa direttiva è arrivata dopo 5 anni dal primo provvedimento dell'Unione Europea in materia, poi annullato dalla stessa Corte di Giustizia Europea perché per eccesso di giurisdizione, che chiedeva delle pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, e l'estradizione, la storia ci insegna, non si chiede per le contravvenzioni ma solo per i delitti, quindi il legislatore europeo vuole dei reati delitti, quindi o sarà la stessa Europa a riformularci una direttiva, perché adesso i poteri ci sono, che ci imporrà di prevedere i maggiori reati ambientali come delitti e quindi noi a valle dovremo per forza adeguarci, oppure addirittura si potrà aprire una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea sul punto per farci recepire, insomma, delle sanzioni penali efficaci, proporzionali e dissuasive, come ricordavano i colleghi. Però bisogna considerare anche un altro aspetto, che una maggior tutela dell'ambiente arriverà sicuramente con la partenza del SISTRI. Ho accennato prima a questo nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti, che prevede sostanzialmente, per esempio, sui trasporti l'utilizzo di camion dotati di black box, quindi collegati al satellite tramite GPS, tracciamento anche delle entrate e uscite con videosorveglianza delle discariche, trasmissione di tutti i dati a questo cervellone gestito dall'Arma dei Carabinieri tramite chiavette USB, che però ad oggi, in base all'ultima proroga stabilita proprio l'altro ieri dal Parlamento, non partirà prima del 30 giugno 2012, già siamo in ritardo di 2 anni, quindi il SISTRI sicuramente aiuterà a tutelare meglio l'ambiente e a monitorare meglio il traffico di rifiuti. Professor Maglia, anche su tuttoambiente.it, che è il sito appunto di cui, che segue lei invece, che ha fondato lei, c'è molto studio sul SISTRI, lei su questo punto? Come la vede adesso? Allora, in origine, diciamo così, allora, primo, è una scelta soltanto italiana, nel senso che l'Europa del SISTRI non gli importa niente, perché l'unico obbligo che abbiamo a livello europeo è la tracciabilità, non necessariamente informatica. Due, al SISTRI sono obbligati a aderire tutti gli stessi soggetti che sono obbligati sostanzialmente, attualmente o prima, a fare MUD, registri e formulari. Noi ci stiamo dimenticando che noi siamo la patria dell'ecomafia, perché noi abbiamo la mafia, voglio dire, quindi è come se da un certo punto adesso c'è stato Torina che decide che siccome prima non faceva i formulari adesso compra le chiavette e le mette dentro i camion. Secondo me non risolverà quasi nulla, voglio dire, per quanto riguarda, è servito la corretta gestione dei rifiuti, anche perché tutto quello che farà il SISTRI tutto il più è cercare di verificare se mai funzionerà il trasporto. Quello che è servito al SISTRI, ce ne siamo accorti in 2 anni e mezzo, è stato quello di gonfiare un sacco di soldi facendo anche degli affidamenti senza gara di dubbio, come dire, di dubbia efficacia e di dubbia legittimità. Quindi io sul SISTRI non è che ci punterei mica tanto. Io sono più d'accordo magari sul fatto che bisognerebbe potenzialmente, secondo me, io facevo già parte di una commissione nel 99 che si occupava di queste cose, inserire nel codice penale magari un titolo ad hoc dedicato ai delitti ambientali, magari inserendo lì davvero il disastro ambientale, che adesso è un po' un pasticcio, o delle gravi forme di inquinamento doloso da valutare e da decidere e da codificare in modo preciso. Il tempo a nostra disposizione è finito, quindi ringrazio i nostri ospiti, ma vorrei da Antonio Pergolizzi, prima di salutarci, Lega Ambiente, un esempio dell'Italia buona, diciamo, nel libro ce ne sono, faccene uno, lasciaci con una caramellina, diciamo, lo zuccherino. Ma sicuramente di esempi positivi ce ne sono tanti, ci sono tante quelle

Ecco, e se le fosse data facoltà, il potere di decidere il destino di questi sassi, lei che cosa ci farebbe? Come la farebbe rivivere questa città? Ah, questo è difficile dire, perché una delle bellezze dei sassi era proprio che questi appartamenti che si scavati nella roccia erano vissuti completamente da una famiglia, figli, animali, tutto quanto, certo. Vivevano stupendamente in questi spazi. Oggi non è più quel tempo, certamente, ma il pericolo è che quello che c'è intorno, che è, diciamo, la civiltà, non dico questa parola tremando, che rischia invece di distruggere appunto posti di un enorme e un immenso valore. Naturalmente ci sono delle istituzioni in Italia che stanno molto attenti a questi dettagli che lei adesso ha sottolineato, cioè della difesa dei centri storici, dell'ambiente in generale. Uno di questi è proprio il Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI. Ecco. Ce ne vorrebbero tanti. Ecco, lei ha esperienza di questa associazione, se non sbaglio. Beh, sono sempre stata interessata a questo straordinario lavoro che fa il FAI, e credo che lo faccia, diciamo, contro tante altre cose, perché è una civiltà abbastanza mia per quella che va avanti. Ci vorrebbe tutta l'Italia per il FAI, ecco. Tra l'altro ricordo agli ascoltatori che proprio il FAI qui a Matera ha deciso di difendere un palazzo Noa, che è un palazzo del 500 e del 600, un bellissimo edificio inserito nella città antica dei Sassi, è già stato iscritto come patrimonio dell'UNESCO nel 93 insieme a tutta la città, quindi insomma si sta operando proprio per un dettaglio di Matera e dei suoi Sassi, ma naturalmente la presenza del FAI qui per questa vicenda è poi garanzia che ci sia una certa attenzione a tutto quanto il comprensorio dei Sassi. Mi auguro che molti italiani sentano questa necessità, che loro hanno un grande tesoro che va difeso. Io sono convinto di sì, grazie alla testimonianza di persone come lei, da anni impegnate nella cultura e nella difesa del nostro marchio italiano nel mondo. Grazie ancora. Certo, grazie a voi. E a tutti gli ascoltatori un buon pomeriggio e un arrivederci da Marco Carminati. È tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.